Buonasera a Federico Rampini, con noi per parlare dello spettacolo Trump Blues, l'età del caos, che sarà in scena il 29 e 30 gennaio al Teatro Vittoria a Roma. Federico, buonasera. Allora, io comincerei subito spiegando cos'è questa formula di giornalismo teatrale. Giornalismo teatrale, ma anche con un musical dentro, perché abbiamo due musicisti bravissimi che interpretano live la colonna sonora di Mr. Donald J. Trump, perché i brani che sentirà il pubblico sono quelli che Trump fa regolarmente suonare all'inizio dei suoi comizi. Per cui la scelta è molto interessante, sono degli oldies, diremmo noi, Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Bob Dylan. È molto interessante vedere che tipo di colonna sonora ha scelto per noi il Presidente degli Stati Uniti. È anche spettacolo teatrale, non è solo giornalismo a teatro, perché c'è un attore professionista, mio figlio Jacopo, che ha studiato arte drammatica a New York, ha fatto televisione, cinema, teatro, e che interpreta dei personaggi in questo spettacolo, personaggi veri ovviamente. E poi ci sono io che sono me stesso e sono il commentatore in scena, colui che cerca di rispondere a delle domande anche un po' angoscianti, cioè come è stato possibile che Trump sia presidente degli Stati Uniti, che cosa lo ha trascinato, innalzato, proiettato fino alla Casa Bianca. Allora, c'è anche una suddivisione in scene, uno schema a quadri, potremmo definirlo. Ce lo descrivi un po'? Cominciamo proprio con l'irruzione del personaggio Trump in scena, lanciato da un brano dei Rolling Stones, è lui il protagonista, e poi man mano arrivano, diciamo, dei personaggi che sono di volta in volta l'operaio di Detroit, il metalmeccanico che lo ha votato e che io ho intervistato andando nel Michigan a tuffarmi nell'America profonda che ha votato Trump. C'è il genero, il primo genero, il marito di Ivanka Trump, personaggio importantissimo, giovanissimo eppure eminenza grigia di questo presidente. C'è a un certo punto un'apparizione che sconcerterà molto gli spettatori romani, che è quella di Gabriele D'Annunzio, perché beh, questo è un piccolo mistero, capire chi verrà capirà perché. Insomma, in mezzo a tutto questo il mio ruolo è quello di lanciare degli interrogativi spesso molto scomodi. Che cosa la sinistra ha sbagliato per spingere la classe operaia e tanti ceti lavoratori a votare a destra sistematicamente? Questo è il tema che percorre, diciamo, nel mio commento a tappe durante questo spettacolo. Il filo rosso è proprio questo. Allora, facciamo un passo indietro. Alla base c'è il tuo libro e come è venuta l'idea di portarlo in scena? Ma in realtà un libro che viene evocato nel titolo è L'età del caos, ma poi questo spettacolo attinge ad altri libri, anche all'ultimissimo, il più recente di tutti, che si intitola Linee Rosse. Ci sono dentro i reportage che ho fatto su Repubblica, mi sono fatto 9.000 chilometri dentro l'America profonda, l'America della provincia, l'America quella che sta in mezzo alle coste, dove di solito gli intellettuali radical chic non si avventurano. Quindi c'è tanto materiale e che viene innovato e aggiornato ogni sera, perché lunedì, ad esempio, penso che parlerò anche dell'evento dell'irruzione di Trump al forum di Davos in Svizzera. La mia parte è anche quella dell'improvvisatore che insegue l'attualità, sta incollato agli sviluppi dell'attualità. Allora, visti dagli Stati Uniti, che paralleli trovi tra l'Europa, il vecchio continente e gli Stati Uniti in questa deriva destrorsa? Le analogie sono fortissime perché i due temi dominanti che hanno trascinato Trump, gli hanno conquistato consensi nei ceti più deboli, nella parte più povera dell'America, sono l'impatto devastante della globalizzazione, la concorrenza cinese, da una parte, e dall'altro l'immigrazione. Quindi è evidente quanto questo sia simile ai dibattiti che abbiamo visto nelle elezioni inglesi per Brexit, francesi, tedesche e ben presto italiane. Negli Stati Uniti, che situazione c'è, a questo punto del mandato e se si stanno sviluppando anche anticorpi rispetto a questa presenza? Gli anticorpi ci sono, racconterò anche questo, è evidente. Beh, io ho lasciato da poco la mia New York nel corso di un weekend che era stato pieno di manifestazioni di protesta nel primo anniversario della sua presidenza, ma anche le consultazioni elettorali parziali che si sono tenute negli ultimi mesi hanno visto quasi sempre sconfitte del Partito Repubblicano e vittorie dell'opposizione democratica. Quindi se dovessi fare adesso una previsione, direi a novembre, quando abbiamo un'elezione legislativa generale, si rinnova il Congresso, Trump potrebbe, pure resterà presidente, ma potrebbe perdere la maggioranza al Congresso. Detto questo, però, una delle cose su cui sono molto chiaro nel mio spettacolo è che questo presidente sta cambiando tante, tante cose in America, perché ha una caratteristica rivoluzionaria, è uno che mantiene le promesse. Che situazione prevedi per il futuro? Beh, intanto io credo che lui continuerà, come ho detto, quella strana abitudine che ha di mantenere le promesse elettorali. Poi, fermo restando che queste promesse per i suoi avversari, i suoi oppositori, sono abominevoli, ignobili, però è uno che fa le cose che aveva detto. Io credo che il 2018 sarà all'insegna del protezionismo, che la fase 2 della sua presidenza si concentrerà molto su, diciamo, misure di ritorsione contro la concorrenza sleale dei cinesi, e poi tenterà di fare anche qualche gesto a effetto sull'immigrazione, costruirà un pezzo di muro col Messico, non certo lungo tutta la frontiera, ma qualcosa anche, diciamo, di molto visibile accadrà anche su quel settore. Di questo fenomeno cosa ti ha più impressionato e sorpreso, compreso anche il corpo elettorale di Trump? Beh, forse proprio la sordità della sinistra e la sua incapacità di reagire di fronte a una perdita di consenso, oserei dire perfino una perdita di contatto con certi strati di lavoratori. La sinistra si è talmente convinta che l'America stava diventando la nazione di tutte le minoranze, minoranze etniche, minoranze religiose, sessuali, che ha completamente tralasciato di capire cosa stava succedendo dentro il cuore della classe operaia. E quando dico classe operaia, tra l'altro voglio essere chiaro, in America ormai classe operaia sono sempre più spesso i fattorini delle consegne di Amazon. Sì. E senti, rispetto all'enclave messicana, che ormai è una vera e propria realtà, mi sembra che la teoria e la pratica del muro, siano comunque fallimentari. Ma il muro è un simbolo, è il simbolo che il presidente continua a usare come lo usava nei comizi elettorali, sollevando boati di approvazione, è il simbolo di un paese che vuole affermare il suo diritto a controllare chi entra dalle frontiere. E qui, anche qui non bisogna scivolare nella demonizzazione. Io non condivido l'idea del muro, però devo anche ricordare, lo farò nel mio spettacolo, che l'America ha avuto dei periodi più restrittivi nel controllo dei flussi d'ingresso, spesso sotto presidenti democratici. Un periodo di relativa chiusura all'immigrazione va grosso modo da Roosevelt a Kennedy, cioè due dei più grandi presidenti democratici. E nello stesso periodo l'America riuscì a costruire un welfare state, perché è più facile, diciamo, costruire solidarietà quando la società è relativamente più omogenea. Io non do un giudizio né politico né morale, ma è una constatazione storica. Oh, rispetto al vecchio continente, mi sembra che una delle grosse differenze sia la presenza qui di un'estrema destra organizzata e attiva. Qui nel vecchio continente? Sì. Beh, ma perché in America l'estrema destra americana l'ha cooptata Trump. Sì. Cioè, attenzione, però poi Trump... Io cerco di capirlo, Trump, non di demonizzarlo, non mi accontento, diciamo, di un giornalismo fatto di invettive, secondo me non serve a niente. Detto questo, non sono neanche cieco di fronte al fatto che il signor Trump è un razzista che ha sdoganato perfino il Ku Klux Klan, cioè abbiamo avuto dei casi in cui il Ku Klux Klan, che esiste ancora nell'America di oggi, certo è una piccola frangia razzista a oltranza, però lui ha avuto parole di comprensione. Tra i suoi consiglieri alla Casa Bianca per un certo periodo c'è stato quel losco figuro di Bannon, che era proprio, noi diremmo, un neofascista. Quindi l'America ha sempre avuto un'estrema destra, non ha un partito di estrema destra, perché l'America è un sistema bipartitico dove ogni tentativo di fondare un terzo partito è sostanzialmente sempre fallito. Però dentro, diciamo, la galassia dei consensi a Trump ci stanno anche dei nuclei di estrema destra. Senti, che tipo di riscontri sta avendo questa performance in giro per l'Italia? Beh, non dovrei dirlo io, però eccellenti. Cioè, cominciamo, tra l'altro, lo spettacolo, come dicevo, si aggiorna continuamente, perché il materiale dell'attualità va riversato continuamente dentro questo spettacolo. Però l'anteprima fu al Festival di Spoleto a luglio dell'anno scorso, che è una vetrina importantissima per il teatro. Poi facemmo delle rappresentazioni a Milano subito prima di Natale. Adesso siamo reduci da una tournée nazionale, partiti dal nord-est, abbiamo fatto l'Emilia, la Toscana, quindi arriviamo a Roma sullo slancio di un pubblico che ci ha molto molto sostenuto. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Beh, i riferimenti web sono sicuramente il sito del Teatro Vittoria di Roma. Io ho ben due pagine Facebook, quindi basta Federico Rampini su Facebook, e c'è anche una fan page, ho anche un blog sul sito di Repubblica, mio figlio Jacopo Rampini ha la sua fan page, Roberta Giallo, la nostra cantante vocalista che interpreta i Rolling Stones, Bob Dylan, ha la sua fan page, quindi siamo tutti molto molto raggiungibili. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Trump Blues, l'età del caos, di e con Federico Rampini e non solo, il 29 e 30 gennaio al Teatro Vittoria a Roma. Federico, un saluto, un ringraziamento e a risentirci presto.